all'inferno! Si fiocca e osteria dunque, e di gridi impotenti al suon si scuota. Tornate che ne voglia vostri ceppi, cor che pospone a bassi affetti un regno, di vagheggiar nello splendore in tempo. Andiamo! Tamerlan, non vi partite! Padre, Andronico, e tu di regna amica, appresso voi d'ambizion sonerea, di sangue offeso e di tradita fede. Or perché sappia ognuno qual al soglio n'andai e qual ne ritorno, guardi si osteria. E più di tutti fissa, fissa i miei occhi, o Tardano, e mira. Questo era il primo destinato amplesso, che portava fastosa osteria al letto. Giace impotente vera, fiera il trono, ma ancora rimesso, vagheggiar tu puoi, la mia illustre vendetta e gli sdegni tuoi. Oh, illustre figlia! Oh, cor costante! Stegni, ma di monarca a torto offeso e disprezzato amante!